perché no? Wow, sì! Sì. Perché no? Che devo fare? Mettiti comodo, preparati a goderti un po' dell'erba più rara che vuoi. È veramente così rara? La più rara è una. È quasi un peccato fumare. È come uccidere un unicorno con una bomba. Datemi un euro per ogni bestemmia che dico ogni giorno e per ogni mio sbaglio. Questa puttana di vita vorrebbe tenermi legato, cane al guinzaglio, sono un randaggio senza branco. Perché gli altri mi vogliono fottere il cibo, tendenza all'omicidio. Se non mi amassi mi rialzo e ti uccido. Non fare il vivo, non fare quello che non sei. Non fare il diavolo 3-6, se poi dopo si scopre che sei gay, ok? Io vivo qui in mezzo al degrado, dove non vivi se non hai denaro. Dove la vita ti buca come una pistola e poi senti lo sparo del gas. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti corre, la morte ti uccide. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti corre, la morte ti uccide. Vado lontano, cerco nei cerchi nel grano, grano, in grano la marcia non vado piano. Faccio il pieno d'odio e dopo implodo, bombe a mano. Datemi un euro per tutte le volte che il sangue ho versato, per quegli amici falsi e per tutte quelle puttane che non hanno amato. Del gatto e l'altra gente qui ha abitudini diverse. Io sogno le stanghette con su sopra una S. Non so se mi hai capito, se non hai capito, frate uguale. Se invece l'hai capito, so che come me sei uguale. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti coglie, la morte ti uccide. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti coglie, la morte ti uccide. Troppe domande nella mia testa messa, dura prova dalla vita stessa. Nella vita si sbaglia, c'è chi si abbaglia di trovare un sogno qui in Italia. Zero limiti, guardami, parlami, siamo in mezzo ad una guerra, coprimi. Che fai? Te ne stai lì seduto a pregare un Dio che non ci ho mai voluto. Non mi voglio spegnere, vendere, sono un catalogo che non si può vendere. Le mie scelte io le peso, come peso tutta la roba che vi ho preso. Vedo ragazzini che si danno alla droga, roba, ma poi affoga dentro quella roba. Vuoi che la smetto in fretta? Aspetta, ognuno di noi prende la propria scelta. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti toglie, la morte ti uccide. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti toglie, la morte ti uccide. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai. La morte ti dà, la vita ti toglie, la morte ti uccide. Ma la vita non è come pensi, ma tu questo lo sai.